fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. L'1 e 45 del mattino, di nuovo buonasera a tutti, sabato 28 luglio 2018. Continuiamo a chiacchierare con i nostri festeggiati, questa è ovviamente Risto Radio Convento. E ora è il turno di un'altra grande protagonista di questa serata, che vince, o forse sicuramente adesso dovrei riguardare un attimino la lista della serata. Però dicevo, vince il premio Ho Fatto Più Chilometri Per. Perché ci dicono, da dove venite ragazze, diteci un po'. Da Chiesa Valmalenco. Chiesa Valmalenco, e sono soprattutto qui per festeggiare lei. Che sei tu? Stefania, si è dimenticata un attimo della sua identità e ha avuto bisogno chiaramente di parlare col suo cervello per ricordarsi un attimo chi fosse. Allora Stefania, benvenuta di nuovo. Grazie. Cosa festeggi? Dici un po'. Addio nubilato. Sempre tuo? Sì, sì. Che sei? Stefania. Che sei? Vedi che... Ah, esatto, perché... C'ha quei 4 secondi di buio in cui le si stacca la spina e si dimentica della sua identità. E c'era anche un film, forse, vabbè, non ne parliamo. C'erano anche... No, forse c'è, esatto, però c'erano anche film che ne parlavano. No, Stefania, dici un po' quando ti sposi con chi, che... L'8 settembre con Michele. Quello lo sa, vedi che lo sa. Il suo nome, ancora deve ripassarlo, però il nome del futuro marito, assolutamente sì. Dici un po' anche quando vi siete conosciuti, se ti va, raccontaci un po' la vostra storia. Ci siamo conosciuti 10 anni fa. Quindi tanto. Quindi, è state insieme da 11, no? No, da 10. Ah, da 10, subito. Per colpa di chi? Conosciuti e innamorati. Per colpa sua. E del suo ex. Dai, quello lasciamo stare. E per colpa sua, che tra l'altro anche lei, visto che stiamo parlando di premi, vince il premio per Carta Fedeltà Convento, che praticamente è sempre qui. Vive a una seconda residenza, non ci paga l'IMU ancora, ma ci lavoreremo a breve. La prossima gratis, eh? Sì, sì, no, è come la non è come la tessera punti, okay. Alla decima partecipazione. Ma è un po' troppo, era la decima. Ma è la tessera, non è che la tessera, cioè non è che il set di... Non è che il set di pentole te lo vinci comprando un pacchetto di cicche al supermercato. Devi spendere un po' prima di vincere il set di pentole. Quindi, alla decima partecipazione al convento c'è un premio in gettoni d'oro. E poi ti diremo l'entità. E quindi, no, dicevamo, conosciuto 10 anni fa, in che occasione? Non si dice, va bene, manteniamo il riservo. E vi siete innamorati subito? Sì. Madonna, è proprio alla faccia del colpo di fulmine. Ricordo molto bene. Lei ricorda molto bene, però non si può dire. Non si può dire. Tu c'eri? Beh, ce l'ha detto. Ce l'ha detto, ci ricordiamo che c'eri. E allora, chi c'è? Tanto tutte rosa vi vedo, bellissime anche dal punto di vista cromatico. Giusto sottolinearlo. E invece lei, classe. No, hai la gonna rosa anche tu. E invece lei, giustamente, maglia bianca da, come dire, rigore, come il rigore impone in queste occasioni, e una bella gonnellina rossa. Ci vuoi dire anche... Madonna mia, rosa. Fucsia, specifichiamo. Ma è la luce, capito? Essendo in uno studio rosso si amalgamano un po' tutti i colori. Dicevo, ci vuoi dire anche chi è qui con te, le tue amiche che ti hanno portato qui? Sì, allora, Simona. Simona, che è quella della carta fedeltà. Sì. Elena, che è mia sorella. No, salutiamo la sorella. Letizia. Ciao. Laura, che è la bionda. È la bionda. Che praticamente tutte bionde, tranne lei che è un po' rossiccia, però ti ringrazio di questa sottolineatura. Cristina. Io. E Monica. Cristina e Monica, ok. Che tipo di rapporto hanno con te? Cioè non intimo, nel senso... No, vabbè. Ah, okay. Cioè che tipo di... Cosa vi lega? Siamo cresciute insieme. Siete cresciute insieme? Esatto. E lei è anche mia cugina. Lei è anche tua cugina, Monica. Ma prima siete cresciute insieme o prima è diventata tua cugina? No, prima è diventata mia cugina. Ah, ok, e poi siete cresciute, esatto, insieme, bene. E faccio ogni tanto dei test per capire se, cioè, se è ancora qui con noi o se ci sta lasciando per altri mondi e altri universi. Bene, bene. E quindi dicevi, tutte amiche, ma le famose amiche di sempre o... Sì. Beh, mi piace che lei... E sembra il Papa quando fai i discorsi del Papa. Sì. Ok. È un po' concorrente da quiz e un po' di discorsi. Sì, no, lei annuisce sempre. Allora, dici un po', visto che questo ti impedisce di rispondere sia ok che sì. Avrete anche programmato un viaggio di nozze, immagino? Una bella luna di miele? Sì, dopo matrimonio, ma è molto... Visto che abbiamo anche un figlio, andiamo vicino. Andate vicino, dove andate? In Sardegna. A Sondrio, no. In Sardegna. In Sardegna, è bello, quindi dal mare alla montagna, no, meglio, dalla montagna al mare. Esatto. Ti piace il mare? Sì. O sei legata al tuo territorio? Sì. Ti piace di più il mare? Sì, ho già fatto così. Infatti viene sul Garda ogni 5 giorni praticamente. Quindi capisci che... Capisci che qualcosa col mare ha a che fare. E sei mai stata in Sardegna? Sei mai stata in quelle zone? Mai. Prima volta quindi. Dove andrete in preciso? Ma ci spostiamo perché facciamo tre... Palermo, giusto? Sardegna. Bari? Bari. Sardegna. Brava, brava. C'è, vedi. Mi piace vedere che c'è. Dove dai, no, non ti prendo più in giro, giuro. Dici? Facciamo 10 giorni, quindi 5 giorni al sud e 3 al nord. E le hai visitate un po' tutte? Esatto. Ok, bene, bene. Quindi giro turistico. Più 3 fa 8 però. Cos'è? 10 giorni. Lascia stare. Lascia stare quei due lì, non te lo dico cosa succede a quei due lì. Tienili in sospeso che fanno ancora parte di quelle cose che non si dicono, come è successo, come è avvenuto. Esatto, come è avvenuto il loro incontro. E quindi ve le visitate un po' tutti. Ma tour in macchina o noleggiate da qualcosa? No, tour in macchina. Ok. Andiamo col traghetto. Andate col traghetto. Quindi ti porti la macchina da Sondrio con la neve sopra. Esatto. E scendete in Sardegna, la neve si scioglie. La neve si scioglie. E poi prendete il traghetto e andate. Bene, bene. Quando partirete? Subito dopo il matrimonio? Il 10 settembre. Ah, 10 settembre, quindi pochissimo dopo. Ok, ragazze, volete salutare qualcuno? Volete dire qualcosa? Io non ho niente da dire. Saluta a tutti, salutiamo Michele e Davide. Abbiamo colto l'occasione ciao. Per salutare a casa, giustamente. Non posso salutare il marito in queste serate. Beh, dipende, insomma. No, salutiamo il figlio. È libero, è libero. No, ciao Davide. Ecco. Io vi lascio Davide. Vi lascio lo spazio anche perché non conosco nessuno di questi nomi, per cui Davide. È giusto ricordarlo. No, il marito lo lasciamo a casa stasera. Scelta tua. A casa. A casa, ok, va bene. Tu Stefi vuoi dire qualcosa? No, ho detto tutto. Ha detto tutto, giustamente. Anche perché. Ok, ringrazio le mie amiche per avermi portato qua. È la prima volta che vengo e. Non ci tornerò più. Ah, ok, vabbè, magari pensavo colpo di scena. Dici? Speriamo di sì. Una tessera questa sera. Speriamo di sì. Inizierò a accumulare più. Brava. Tra l'altro abbiamo set di patelle. Di pentole. Anche di patelle se vuoi. Te le creiamo apposta, la patella della Stefania. Molto bene. Tra l'altro, visto che abbiamo iniziato parlando di record, terminiamo anche parlando di record, ne abbiamo battuto uno in questa serata. Dovete sapere che Stefania ha un accordo con Dio tale per cui può usare solo 50 parole al giorno, ne ha usate 120 in questa conversazione, per cui direi che è un momento importante della sua vita, perché di solito non superava le 50 parole durante il giorno e solo in questi 5 minuti è riuscita a dirne più di 50. Quindi grazie Stefania, siamo veramente orgogliosi di te. Grazie. Siamo felici che il convento ti abbia dato questa spinta a esprimerti e a lasciarti andare. Continua così, mi raccomando, fate gli scherzi. Grazie mille di essere state con noi, speriamo vi siate divertiti e buona fine serata, perché c'è ancora qualcosa adesso da fare. Andiamo a cantare, certo, assolutamente sì. Allora, grazie ancora ragazzi, a presto! A presto!